1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan, che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Ci siamo, sono le 7:19 minuti in punto, cari ascoltatori. Eccoci qua, pronti a leggere i giornali. 1, 2, 3, ci siamo? Sì, c'è anche Don Livio, ben contento di leggerli con noi. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. È vero, è vero, è vero. Forza, forza, andiamo! Giovedì 3 marzo, siamo qui con i titoli Sole 24 Ore, bonus casa e mobili, ecco gli sconti del 7.30, coi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate parte l'operazione precompilata 2016. Questo è il titolo di prima pagina. Poi ci sono un po' di notizie dall'estero, per il Corriere della Sera. Libia, l'Italia pronta a muoversi. Mentre Repubblica un reportage dalla Siria, così resiste Damasco, Siria viaggio nella fragile tregua. Non c'è una notizia principale che si impone, ecco che si guarda un po' ovunque. La stampa invece si concentra sull'America, Hillary Trump via il duello per conquistare l'America. Venendo invece alle questioni anche il manifesto e l'Unità hanno sull'America il muro americano, il manifesto c'è la foto di Donald Trump, mentre l'Unità mette Hillary Clinton e Donald Trump, i due possibili sfidanti campioni nel mondo. Questo è il titolo legato però a che cosa? Al report Coldiretti Simbola, boom dell'export per 1400 prodotti made in Italy. E questo sotto la foto però di Hillary Clinton e Donald Trump. Venendo alle questioni italiane, meramente italiane, il giornale caos su canone e mutui. Il governo fa flop, l'esecutivo costretto a battere in ritirata, bloccato il decreto che consente alle banche di prendere le case dei morosi. Libero invece, affitto l'utero a due gay per pagarmi il mutuo, la moglie di un imprenditore in crisi si offre, pronta ad andare all'estero. Il Fatto Quotidiano, il PD scopre che il suo governo sui mutui casa l'ha fatta sporca, la protesta del Movimento 5 Stelle e le modifiche sui mutui. Riaprite le frontiere, invece l'appello, l'Unione Europea dice pronti 700 milioni di euro di aiuti con Bruxelles, che richiama gli stati a controlli coordinati, la questione immigrazione. C'è poi il tema da cui voglio partire dell'omicidio stradale che è diventato legge, tutti i dettagli sono sul Sole 24 Ore, ma su tutti gli altri giornali, ma Maurizio Caprino spiega con la solita efficace sintesi cosa cambia con il nuovo reato di omicidio stradale che assorbe l'attuale omicidio colposo commesso con l'aggravante delle regole sulla circolazione stradale. Sono stati introdotti anche altri due reati legati ai due principali citati nella questione del reato di omicidio stradale, vale a dire la fuga del conducente in caso di omicidio stradale e la fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali. Le pene base, cioè in caso di omicidio stradale semplice, resterà l'attuale reclusione da 2 a 7 anni. In caso di lesioni gravi la reclusione resterà da 3 mesi a 1 anno, per quelle gravissime da 1 a 3 anni. Inoltre salirà da 3 a 6 mesi il minimo di pena per le lesioni personali semplici. Ovviamente poi quando la violazione consiste nella guida in stato di ebbrezza alcolica grave, cioè un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro o sotto effetto di droga, l'omicidio stradale sarà punito con la reclusione da 8 a 12 anni, le lesioni gravi con la reclusione da 3 a 5 anni, quelle gravissime con la reclusione da 4 a 7 anni. Comunque, insomma, tutti i dettagli ci sono per questo omicidio stradale che era stato prima rinviato, poi alla fine è stato approvato con soprattutto i parenti delle vittime, per esempio il papà di Lorenzo Guarnieri, che era stato ucciso da un pirata della strada sotto effetto di alcol e droga, e Stefano Guarnieri, che abbiamo avuto ospite varie volte anche a questi microfoni, dice, intervistato dall'Unità, finalmente giustizia per tante famiglie, anche se la norma è contestata, cioè chi dice che in realtà siano norme troppo dure, che non sia una vera giustizia. ma sia più giustizialismo, però il tema è molto dibattuto. Come è dibattuta la questione ancora dell'utero in affitto o maternità surrogata, come dir si voglia. Come ha detto il titolo di Libero, è questo, la moglie di un imprenditore siciliano che dice: io sono disposta per la crisi a affittare l'utero per pagare il mutuo. Ora, al di là dell'annuncio, che voglio pensare magari anche essere una provocazione vista la crisi economica in Italia, ci sono però alcune storie legate sempre alla vicenda di Nichi Vendola, alcune storie sempre sul Libero, sul Giorno, che mi hanno colpito. Allora, intanto partiamo da Nichi Vendola, che racconta al Corriere della Sera con Monica Guerzoni, ha iniziato a mandare agli amici più stretti la foto del bimbo nato. Foto per la quale, racconta il Corriere, una rivista patinata sarebbe stata disponibile a spendere 30.000 euro per metterla in copertina, avere l'esclusiva, anzi no, mi correggo, 35.000 euro. E Nichi Vendola, dicono gli amici, quando tornerà in Italia spiegherà tutto e vedrete allora che la storia di Tobia Antonio è molto diversa da come è stata raccontata. E allora ci si concentra a quella prima dichiarazione ufficiale di Vendola, quando ha detto che Tobia è figlio di una grandissima storia d'amore. Cosa voleva dire? Si riferiva forse al fatto che questa donna, la donna che l'ha messo al mondo, farà parte della sua vita? Qualcuno dice sarà un po' come una sorta di zia che passerà il Natale a Terlizzi con i due papà. E poi ancora in questo articolo di Monica Guerzoni si racconta che questa donna lo avrebbe fatto per generosità e si parla di un compenso in denaro molto al di sotto rispetto alle cifre che sono circolate, nel senso, per la maternità surrogata classica si parla di 200.000 euro, o meglio 200.000 dollari, eccetera. Insomma, in attesa delle spiegazioni ci sono queste due storie, una è finita su Libero e sul Giornale e una sul Giorno, che mi hanno colpito, dicevo. Per esempio, in America succede a un'attrice americana e al marito che hanno fatto ricorso alla maternità surrogata. L'attrice si chiama Sherry Shepherd, il marito Lamar Selly, fanno ricorso a questa pratica, solo che poi succede che si separano appena nasce il bambino con maternità surrogata. E allora questa attrice americana va in tribunale e dice: voglio disconoscerlo. Disconoscere il bebè, si fa fare un bimbo surrogato, poi però vuole ridarlo indietro. Questo è Libero. E così il Giornale: attrice rifiuta il figlio comprato. Ma il giudice ora dice: non può, ha firmato un contratto e quindi lo deve tenere. Ecco, vedete che quando ci sono queste storie, per carità, estreme, paradossali, uno si fa davvero 1.000, 2.000 domande. Oppure sentite questa sul giorno, eccola qua, me la sono persa. Niente, me la sono persa, cosa devo fare? Peter, guarda, soccorrimi, fai qualcosa. Mannaggia, la distrazione. Ma me la devo raccontare così. Comunque sul Giorno è raccontata questa storia. La racconto senza titolo. C'è un dipendente delle poste che fa ricorso alla maternità surrogata con la moglie. Solo che poi maternità surrogata, la donna che, come dire, posso usare questa espressione, affitta l'utero in maniera brutale, rimane incinta di 3 figli. E questo dipendente delle poste dice: no, io 3 figli non me li posso permettere, quindi uno, per favore, devi ricorrere all'aborto per uno. 2 li tengo, ma uno no. E questa donna dice: no, io sono contro l'aborto, piuttosto ne faccio 3 e il terzo me lo tengo io. Il giudice dice: no, per contratto il padre è colui che ricorre alla maternità surrogata e quindi la donna che porta in grembo i 3 bambini non ha diritto a disporre di uno di questi 3 dicendo: lo tengo io. Poi c'è la questione a dire: a questo punto non dovrà abortire, però non potrà neanche tenere il terzo figlio. E che si fa allora se quello che ne voleva solo 2 il terzo non lo vuole? Ecco, questa è un'altra storia raccontata dagli Stati Uniti, per carità, paradossale, ma finisce in questo caso sul Giorno. Noi invece occupiamoci a Roma di una grave problematica fondamentale, irrisolvibile, pare, i topi. Ma non quelli d'appartamento, cioè proprio i topi, i ratti. I ratti. Infatti ci sono 3 topi per abitante, cari amici di Roma. La storia che ha portato alla luce questa annosa in realtà questione, la storia anche un po' splatter, è che, come racconta Sergio Rizzo, mancava questo dettaglio macabro: il tetto, il sangue di un topo che cola dal tetto sulla scrivania di un malcapitato impiegato del comune di Roma. Perché succede tutto a uno sportello aperto al pubblico, uno dei 4 sportelli della biglietteria dei Fori Imperiali, dove un topo è rimasto nell'intercapedine del tetto, è rimasto schiacciato e cola del sangue di ratto sullo sportello. A parte la scena, ecco, da qui la questione a dire: oh, un ratto morto fa chiudere la biglietteria dei Fori Imperiali. Il dato di fatto è che ci sono 3 topi per abitante. Così Libero: Fori Imperiali chiusi per topi, allarme nel centro di Roma. Repubblica: il degrado capitale a Roma, l'archeologia chiude per topi. Oh, toccherà chiederlo ai candidati sindaci: che farete per i topi? può sembrare una battuta. Come contrasterete da sindaco il dramma dei topi e dei ratti per Roma? Sarà una domanda che toccherà girare a tutti i candidati sindaco. Dai, siamo qui all'articolo che mi fa pinzore della giornata, perché succede anche a me. Ma io l'ho detto già più volte, faccio rispondere sempre mia moglie, perché sì, è uno spettacolo vederla nel come tratta le persone che chiamano. Quelli dei call center che chiamano immancabilmente a casa quando uno si siede a tavola. Dovreste fare tutti, come racconta Nadia Muratore sul giornale, come questo signore d'Imperia, Vittorio Gerace, che non ne può più e ha deciso di denunciare alla magistratura per stalking i call center che lo chiamano a tutte le ore, almeno 5 volte al giorno. E lui dice: sì, certo, potrei staccare il telefono, ma io ho 2 figlie e voglio poter sapere queste 2 figlie se hanno bisogno di chiamarmi a casa. Poi non ho capito perché uno dovrebbe staccarsi il telefono di casa, cioè, come dire, tagliarsi un piede, perché così così non deve più camminare. Non capito? Uno vuole tenere il telefono e vuole, non vuole rotture di coglioni, ecco, diciamolo francamente. Allora, questo signore, 5 chiamate al giorno, è lo stalking del call center, caso di cronaca. Cioè, voi vi diranno che basta entrare negli elenchi, basta farsi togliere dagli... Non è vero! Non è vero! L'abbiamo fatto 1000 volte e non si sa come chiamano, hanno i numeri. E quindi ha fatto bene questo signore, che però deve prendersi la seccatura di andare in tribunale, andare in procura, denuncia per stalking ai call center. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che, quando queste cose capitano, dice: sono cose che capitano. Quando parli sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. E allora, alle 7:36 minuti, eccoci qui, cari ascoltatori, a leggere i giornali. Allora, sempre di tasse si parla e di lavoro. Questi dati sui posti di lavoro oggi vengono commentati in un'intervista del ministro al lavoro Poletti, intervistato dal Giorno. Davide Nitrosi racconta in questa interessante intervista. Beh, dice Poletti, sono 290.000 posti di lavoro in più dopo anni in cui se ne perdevano 200.000-300.000 all'anno. È la metafora del tortellino. Sentite qui Poletti che dice: difficile dire se sono buoni per il brodo, la pasta o il ripieno. L'esito positivo nasce da un complesso di condizioni: l'economia che lentamente riparte, la riforma dei contratti che offre condizioni di tranquillità, gli incentivi che cambiano una cosa storicamente sbagliata in Italia, i contratti precari che costano di meno. Perché, dice Poletti, il costo del lavoro stabile deve essere più basso del costo del lavoro a termine e flessibile. Al che la domanda del Giorno è: ma i bonus continueranno, ministro? Siamo partiti nel 2015 da 3 anni di bonus, nella legge di stabilità 2016 siamo scesi a 2. È ragionevole pensare che dal prossimo anno il bonus diminuirà a 1 anno e quindi fino al termine del 2017. Alla fine del terzo anno tutti quelli che hanno ricevuto un bonus lo concluderanno nello stesso momento. E dopo? Per il 2018 dovremo individuare con quali forme potremo produrre lo stesso risultato, e cioè far sì che il costo del lavoro stabile sia strutturalmente più basso di quello precario, anche perché qui, commento mio, c'è il rischio, non vorremmo mai vedere finiti gli incentivi i primi licenziati da Jobs Act. Ecco, qualcuno dice che già si vedono. Comunque, c'è poi una domanda sulla proposta del sottosegretario Nannicini, che è questa: diminuire i contributi per garantire buste paga più pesanti, ma andare a scontarli sulle pensioni. Non si rischia di avere pensioni più magre? Risponde Poletti. Questi argomenti sono molto delicati, in particolare quando si parla di pensione è giusto parlarne quando c'è una proposta definita e formalizzata. Commentare ipotesi su un tema che preoccupa tante persone legittimamente, come le pensioni, è sbagliato. Insomma, diciamo che qui non si vuole impelagare Poletti in una risposta che rischia di gettare nel panico la questione dei i pensionati e tutti quelli che riguarda appunto questo tema delicato e molto sensibile. Questa intervista la trovate sul Giorno a Poletti, dicevo, mentre sul Corriere della Sera con Maria Teresa Meli, che ogni giorno racconta quello che succede dalle parti di Renzi, beh, si parla, attenzione, di una sorpresa. La sorpresa sul fronte del fisco. Renzi medita la sorpresa, quella che viene definita il colpo, l'idea dell'ultimo minuto. E io ho detto: ma l'ultimo minuto di che? Finisce il mondo? Ah no, giusto, ci sono le elezioni amministrative. E allora poi dopo però viene da dire, quando uno mette il dubbio che un'idea magari anche positiva per gli italiani sia presa perché ci sono le elezioni, poi di fronte a questo articolo non può essere criticata questa idea. Perché Renzi medita l'idea dell'ultimo minuto prima delle amministrative, il gran colpo. Quale sarà? Questo non è dato a sapere al momento nell'articolo di Maria Teresa Meli. Comunque il Premier prepara la mossa sui redditi, l'idea di una sorpresa sul fronte del fisco. Ecco, poi non dicano che queste idee non vengono partorite a ridosso delle competizioni elettorali, cioè ogni sei mesi in Italia praticamente ce n'è uno. Tra l'altro Renzi ieri ha annunciato, andando in un istituto di ricerca a Pomezia, investimenti per la ricerca, ha parlato di 2,5 miliardi. Con questa frase: per anni ci siamo raccontati solo le cose che non andavano bene, ci siamo depressi, ci siamo raccontati un'Italia come paese finito, invece l'Italia è un paese infinito, il paese con il coltello tra i denti. Questo ha detto dell'Italia Matteo Renzi, il paese con il coltello tra i denti. Il Fatto Quotidiano critica: è l'ennesimo annuncio di Renzi, 2,5 miliardi per la ricerca. Vedete anche sui numeri, come sapete in Italia non ci si mette mai d'accordo. Sta di fatto che Poletti dice anche lui con ottimismo: il lavoro riparte, la ripresa c'è. Ieri abbiamo raccontato, lo diceva Repubblica, di questo mega concorso, 4,000 persone per un posto da infermiera a Verona. Oggi Gianni Micaletto racconta per La Stampa da Sanremo la marcia su Sanremo. Chi sogna la sicurezza dell'impiego in comune approfittando dei licenziamenti recenti per gli scandali, i furbetti del cartellino, stanno riversando queste persone centinaia di mail e curricula per sostituire i furbetti del cartellino licenziati dal sindaco. Insomma, l'Italia si mette in coda per un posto in comune a Sanremo dopo il terremoto provocato dall'inchiesta dei furbetti del cartellino. È bastato il disperato appello del sindaco Biancheri al premier Renzi e al ministro alla pubblica amministrazione Madia per chiedere una deroga a concorsi e assunzioni di fronte a una voragine aperta negli uffici da 32 licenziamenti e 66 sospensioni, che ecco si è scatenato il popolo dei disoccupati. C'è anche chi la butta su una scelta di vita, perché si sa, Sanremo è Sanremo, e quindi ha deciso di scrivere al comune di Sanremo per cercare il posto nel fisso. Cercare il posto fisso. Quindi bene o male non si sa. Intanto attenzione per quel che riguarda l'immigrazione. Questa è una notizia che finisce su tutti i giornali. Anche qui poi non dite che non erano stati avvisati, che non è stato avvisato chi di dovere. L'allarme viene dai servizi segreti italiani, quindi persone informate. I Balcani sono un vivaio e una corsia di transito dei terroristi. Attenzione, la relazione al Parlamento, nella rotta seguita dai migranti, c'è un corridoio biunivoco, aumenta il proselitismo, cresce il rischio di attentati, soprattutto per il Vaticano, questo nella relazione dei servizi segreti, e soprattutto si parla delle rotte dei migranti, guardate anche qui su Repubblica, terroristi infiltrati sulle rotte dei migranti. Questo è l'allarme dei servizi nella relazione al Parlamento, c'è un rischio concreto dai Balcani. Si parla ancora di europei di calcio nel mirino, possibili partite a porte chiuse si preannunciano. Diciamo che non sono buone notizie quelle che arrivano dai servizi segreti. A proposito di partite, ma io dico, ma cari interisti, ma non vi conveniva perdere 3-0 anche ieri, 3-0-4, piuttosto che arrivare fino alle 11:40, tenendomi peraltro sveglio fino alle 23:40 per vedere come vanno i rigori e finire poi con Bonucci che segna il rigore decisivo a San Siro! La Juventus è la seconda finalista della Coppa Italia. Mauro Meazza, ti ho pensato ieri, ho detto, ma poveri, ma mai una soddisfazione, mai una gioia gustata fino in fondo, Mauro. Bella partita, complimenti, grande vittoria. Posso dire buongiorno? Buongiorno. Ecco. Ti sento assonnato, anche tu, no, anche tu hai fatto le ore piccole. Se sei andato a letto tardi per gufare, sappi che gufare. No. Io ti favo Inter, ti giuro, ieri speravo, sognavo. No, sognavo, ho detto non ho mai tifato Inter come in questa occasione. Va cioè bene, vedere la Juve vincere sempre è insopportabile, però... Vorrei parlare... Va bene, di che cosa? Allora, non ti si sente più, dove sei andato? No, sono qui. Ah, eccoci, adesso ti sentiamo. Lo spesometro, cioè, sappi che nelle pagine 2-3 del Sole 24 di oggi parliamo di tasse, parliamo di sconti sulle tasse in pagina 3, però anche di controlli dello spesometro, cioè la regolarità, diciamo, delle operazioni con IVA. Ecco, sappi che ci sono state un po' pochine risposte sullo spesometro da parte delle richieste inviate dalle entrate, e quindi, per citare una frase che è stata ripresa già ieri sul Sole 24 Ore, adesso potrebbe anche scattare il lato oscuro, potrebbe conoscere il lato oscuro dell'accertamento. Certo. Fuor di Celia, invece, molto importante quello che è stato chiarito ieri dall'Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione dei redditi, cioè sugli sconti, ad esempio, sulle detrazioni che vengono consentite. Ora tu, avendo rubato un buon minuto solo per parlare di pizzillacchere, non mi impedisci di riferire puntualmente che cosa c'è. Comunque, sei molto nervoso, io non capisco perché. I lettori, cerco di essere rigoroso e non fare delle facce di ironia. E non petaloso. Allora, meno gufoso e più rigoroso. Non distrarmi, poi ti voglio anche dire, a proposito, siccome negli sconti, tra gli sconti che citiamo, c'è anche lo sconto IRPEF per chi acquista una casa per affittarla, ma che ti spiego a fare, leggi la pagina 3 di oggi, c'è anche oggi, con il Sole 24 Ore, Casa 24, non so se la circostanza ti fosse sfuggita, visto che hai fatto tardi, poi ti perdi i giornali, non ti ritrovi più, devi riferire notizie a memoria, eccetera. Inoltre, ti vorrei segnalare che la prima pagina di quelle di finanza, che tu devi leggere sempre avidamente. È dedicata al polo, il polo. Esatto, il polo. Che è una notizione mica da poco, come dire, il polo, cioè questo polo tra Repubblica e Stampa, che a noi dei giornali, insomma, ma anche a voi delle radio, dà una certa curiosità e interesse. Arrivando poi a norme tributi, che tu come ogni giorno leggerai religiosamente, bravo, scoprirai allora che, tra le altre cose, è in arrivo il decreto per il canone RAI in bolletta, una delle innovazioni, devo dire, più complicate da attuare. Doveva essere già arrivato da un pezzo, come sai, già da almeno da una ventina di giorni, arriverà, ci sono delle rassicurazioni, non dovrebbero esserci pasticcico tra i vecchi abbonamenti e i nuovi. Comunque, se leggi norme e tributi potrai apprendere tutto questo. Oltre all'omicidio stradale di cui già hai parlato, e quindi rinviamo alle pagine di norme tributi per quanto è contenuto nelle nuove norme testé approvate per l'omicidio stradale, ma questo mi serve soprattutto per la mia parola conclusiva, che anche oggi rigorosamente è traffico. Milan, il cagnas vantaggio dell'informazione. Questa è una delle migliori che abbiamo rispolverato, delle sigle che vi prego di mandare via WhatsApp al 349-238-6666, è il numero WhatsApp, mandatele in audio. Allora, notizia che il rapporto dell'antimafia ha reso nota, Franco Roberti è procuratore antimafia e antiterrorismo, un europeo su quattro fa uso di stupefacenti. Cari italiani, non giratevi, non cercatelo a fianco, a volte o tanto lontano. Un europeo su quattro fa uso di stupefacenti. Grazia Longo, pagina 4 della Stampa, lotta al narcotraffico che è definita da Roberti un'emergenza planetaria, allarme del procuratore nazionale antimafia che durante la presentazione della relazione annuale della direzione antimafia al Senato ha rivelato questi dati sconvolgenti. 250 milioni di consumatori, un europeo su quattro, ha rapporti con il mondo della droga. Nel mondo lo spaccio di droga muove 560 miliardi di dollari. In euro in Italia solo 35-40 miliardi. Un'enormità se si pensa che il settore manifatturiero italiano frutta poco più di 45 miliardi di euro. Dunque questi dati fanno capire che si tratta di un'emergenza davvero planetaria. A proposito di pianeta, ho trovato molto degli articoli di esteri dedicati, beh, intanto al Super Tuesday che ha incoronato di fatto Donald Trump e Hillary Clinton, ormai pare, non è tutto scontato ovviamente, ma Donald Trump soprattutto sembra l'uomo nuovo per i repubblicani, l'uomo che sconvolgerà i repubblicani, l'uomo che potrebbe rifondare la destra o affondare la destra, tanto che oggi vi segnalo l'articolo di Massimo Gaggi, è l'editoriale di prima pagina del Corriere della Sera. Il titolo è questo: l'America ignota di Donald Trump. E dopo il voto di ieri il Partito Repubblicano è nel panico con scenari apocalittici. Trump, che non si fa problemi a demolire i cardini ideologici della destra promettendo più tasse per i ricchi, sgravi per i poveri, protezionismo commerciale, mentre sulle questioni bioetiche da aborto a matrimoni gay è più vicino ai democratici che ai conservatori religiosi, può ridurre il Grand Old Party a un cumulo di macerie. Tanto che Massimo Gaggi racconta ci sono tre scenari a questo punto per il Partito Repubblicano. Il primo scenario è questo: una sorta di guerra civile non dichiarata contro Trump, coi repubblicani che per liberarsene non escludono nemmeno di lasciare la Casa Bianca ai rivali, quindi a Hillary Clinton. Secondo scenario: quello di Trump come incidente della storia che innesca una rifondazione della destra americana. C'è già chi sostiene che il Partito Repubblicano, sclerotizzato, sconvolto dalla rivoluzione dei Tea Party, condizionato dalle sue rigidità ideologiche, potrebbe essere lasciato come un guscio vuoto nelle mani di Trump. Terzo scenario, e c'è chi comincia a dirlo, Trump non è poi il diavolo. Da imprenditore capisce meglio di un partito impiccato alle sue parole d'ordine che un'austerity fiscale troppo severa, una bassa tassazione della ricchezza e i processi di deregulation e globalizzazione sono all'origine dello schiacciamento della classe media. E dunque vedere un Trump come una risorsa, come scrive Gaggi, bisogna essere molto ottimisti per credere a uno scenario simile, perché nei discorsi di Trump le poche idee, forse di buon senso, su economia e società sono sepolte sotto cumuli di invettive e proclami che a prenderli sul serio presuppongono un'attività di governo fatta di violazione della Costituzione e del diritto internazionale. Ma non è detto poi che Trump, in caso di elezione, applichi tutte queste ricette da olio di ricino, così le definisce il Corriere, visto che lui ha anche ritwittato una frase di Mussolini. Tra l'altro il Corriere con Tommaso Labate va a scoprire i trampisti italiani e rispolvera una straordinaria foto che qui ringrazio. Grazie a Tommaso Labate, vabbè sei interista quindi sei un po' in lutto rispetto a ieri, però grazie per aver scovato questa foto di Daniela Santanchè e Donald Trump 15 anni fa immortalati uno a fianco all'altro e messi a pagina 6 del Corriere della Sera. Io l'ho messo anche nel mio profilo Twitter Alino Milan, potete vederla la foto, Daniela Santanchè e Donald Trump con una pettinatura anche lì, con una fonatura impazzita, 15 anni fa, ritratti sul Corriere della Sera, perché Daniela Santanchè dice è mio amico, sa che è mio amico. E un altro dei migliori amici di Donald Trump in Italia, indovinate chi è? Flavio Briatore, anche lui amico di Daniela Santanchè, non è un caso. Flavio Briatore dice di Donald Trump testuale sul Corriere della Sera: per capire chi è Donald Trump bisogna passeggiare con lui in una via americana. Lei lo ha fatto? Io l'ho fatto. Ha presente passeggiare con i Rolling Stones? La stessa cosa. Così Briatore, passeggiare con Donald Trump come passeggiare con i Rolling Stones. Lui piace a tutti, è la sintesi del sogno americano, piace ai ricchissimi, ai poveri, alla middle class, è stato ciascuno di loro in ogni parte della sua vita. Insomma, Donald Trump è un perfetto connubio di Silvio Berlusconi e Beppe Grillo. Beh, con questa di Flavio Briatore abbiamo sepolto le possibilità, se un americano ci ascolta, di Donald Trump alla Casa Bianca. Ci sono tantissimi articoli, non faccio in tempo. C'è un'intervista al ministro degli esteri libico sul Corriere della Sera, Lorenzo Cremonesi lo intervista. La Libia, l'Italia è pronta ad andare in guerra. No, non dite in guerra che non si può, diciamo in Libia, andiamo in Libia a fare una gita. Ci sono tanti articoli sul polo Repubblica Stampa, come ha detto Mauro Meazza sul Sole 24 Ore, nasce il più grande polo dell'editoria italiana, si uniscono Repubblica e Stampa, si uniscono con ovviamente Repubblica Stampa e il Secolo XIX, ovviamente con autonomie dei giornali, ma insomma cambia molto nell'editoria italiana, ci sono nuovi scenari che riguardano anche altre importantissime testate. Ma siamo alla Carta Costa, la Carta Costa, la Carta Costa, articolo più inutile scovato sui giornali, la Carta Costa, eccolo qua, Selvaggio Lucarelli, no, il fiore petaloso si è già appassito, la parabola velocissima del piccolo Matteo che ha inventato Petaloso, era l'eroe e adesso sta già un po' sulle balle a tutti. Ma chi se ne frega!